Siamo a visionare il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Tutti i riferimenti per quanto riguarda la scaletta della trasmissione di quest'oggi potete consultare il sito internet della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni visionari, dove trovate le uscite in sala di oggi giovedì 22 gennaio 2015, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la programmazione sul piccolo schermo e poi il link per riascoltare la puntata precedente, ma anche tutto l'archivio già del 2015. Idem per quanto riguarda la pagina Facebook del Radioteatro. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio. Sull'home page c'è l'opzione Ascolta la diretta. Con noi Giulia Palladini della Sarraz Pictures sulla campagna di crowdfunding per la collana DVD dei loro lavori. Giulia, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Federico. Allora, cominciamo intanto con un bel ritrovata su queste frequenze e poi per chi ci ascolta chiaramente parliamo un po' di la Sarraz Pictures, qual è la sua avventura? Certo, per chi non conoscesse appunto la società, la Sarraz Pictures è una società di produzione e distribuzione cinematografica di Torino, fondata nel 2004 da Alessandro Borrelli. Dal 2010 distribuisce documentari in tutta Italia e dallo scorso novembre, con l'uscita nelle sale del film La Sapienza di Eugene Green, ha iniziato anche a distribuire film di finzione. Nel 2014 la società ha compiuto 10 anni di attività e ha pensato di celebrare questi primi 10 anni di attività con il lancio della collana Home Video, che racchiuderà per la prima volta i documentari e i film realizzati in questi primi anni. Abbiamo pensato di appunto lanciare questa collana tramite la piattaforma di crowdfunding internazionale Indiegogo. Sul nostro profilo Facebook e Twitter della Sarraz distribuzione e sul profilo Twitter la Sarraz Pictures potrete trovare il link per appunto la campagna, per partecipare a questa, alla campagna Home Video. Giulia, volevo chiederti un paio di cose. Intanto, quali sono i criteri che sottostanno al vostro listino? Dunque, le modalità per partecipare alla campagna sono diverse, come poi potrete vedere sul sito. Abbiamo pensato a 3 modalità: con un piccolo contributo di 5 euro si può appunto partecipare alla campagna e come diciamo premio si potrà avere il proprio nome inserito all'interno di ogni singolo DVD, mentre invece con 9 euro si avrà la possibilità di acquistare uno dei DVD della collana, che sono 6 e contengono però 7 film, in quanto appunto un DVD contiene i 2 documentari dei Fratelli De Serio. E altrimenti la terza opzione è con 49 euro si potrà acquistare l'intera collana. Senti, volevo chiederti invece sulla scelta dei vostri documentari, come vi orientate? Noi abbiamo messo appunto questi 7 titoli all'interno della collana e non sono presenti tutti i titoli realizzati in questi 10 anni, ma appunto i film e i documentari che appunto di cui potevamo realizzare la versione un video. Appunto sono 7 titoli, appunto partiamo con i documentari dei Fratelli De Serio, Bacroman, L'esame di Jodie, in un secondo DVD è presente invece il film Sette opere di misericordia, che era appunto stato premiato al Torino Film Festival. E poi si continua con il documentario di Sergio Basso, Giallo a Milano, per poi invece passare al territorio sardo con due documentari legati appunto a questa regione, che sono Cadenas di Francesca Balbo e Dal Profondo di Valentina Pedicini, che ha vinto appunto come miglior documentario italiano allo scorso Roma Film Festival. E per finire con il documentario di Enrico Bisi, Pin Gang. E questo è diciamo come si compone l'intera collana un video della Saraz. Sì, no, però le caratteristiche che seguite nella scelta dei lavori, volevo sapere se insomma come funziona la vostra scelta. In questa collana? No, in generale, per le cose che di cui scegliete la produzione e poi la distribuzione. Beh, sono tutti titoli appunto legati a autori che affrontano comunque temi vicini al mondo del diciamo sociale, quindi okay. Per esempio con Cadenas e Dal Profondo è un tema, affrontano tutti temi sociali legati al mondo femminile, così anche come il documentario di Enrico Bisi, Pin Gang, con invece i Fratelli del Serio è sempre comunque anche lì una scelta legata sia al mondo sociale e alla dimensione dell'integrazione, mm-hmm. Così come anche in Giallo a Milano, che appunto parla della prima comunità, di una delle più grandi comunità cinesi in Europa, che è quella presente a Milano. Diciamo che è un cinema attento a questo tipo di problematiche e che appunto ha sviluppato in questi anni e continua a sviluppare progetti legati a questi ambiti. Senti, la scelta del crowdfunding per questa collana come nasce? Ma nasce perché appunto volevamo far partecipare il nostro pubblico e renderli appunto partecipi di una parte della storia della Saraz Pictures, per cui pensavamo potesse essere appunto un'idea, una bella idea, il fatto che il pubblico proprio contribuisse nell'inizio di questa parte di distribuzione. E ovviamente dopo la campagna finirà il 20 febbraio prossimo, quindi c'è ancora circa un mese, però ovviamente la parte appunto long video continuerà anche dopo, e stiamo organizzando degli eventi promozionali nelle maggiori città italiane per appunto continuare con la promozione del cofanetto e dei titoli distribuiti. Va bene, allora i riferimenti ce li hai dati, un abbraccio e risentirci per le prossime novità. Ti ringrazio, grazie a tutti. Ciao Giulia, ciao. Giulia Palladini di La Saraz Pictures sulla campagna di crowdfunding per la collana in DVD dei loro documentari. Lo sa che io non ci credo che lei lavora per la CIA? Perché no? Non lo so, insomma, sa, pensavo a gente come James Bond. No, sono tutti sul mio tipo. Io sono il classico agente della CIA, muscoloso, di poco ingombro, molto compatto. Ti interessa di entrarci? Ti assicuro che la cassa malattia è fantastica. Il segreto è non farsi ammazzare. Se ti ammazzano, la cassa malattia non ti serve più. Ecco, vedi, tutta questa storia ha a che fare con la congiura che ha avuto origine nel Centro America contro l'economia degli Stati Uniti. La rapina alla zecca tedesca di 10 mesi fa ci mise in allarme. No, veramente rapinarono la zecca inglese. E poi la zecca tedesca e infine la zecca svizzera, senza mai prendere del denaro. Ma chi erano? Un sindacato latinoamericano. Ok. Prendevano solo le matrici. Mm-hmm. Ora, quello che tu devi capire è che noi siamo informatiche, l'agenzia è informatica. Cioè la CIA? Capisci al volo, sei un demonio, proprio la CIA, sì. Noi sappiamo che tutte le matrici vengono inoltrate nel Centro America. E quei paesi intendono stampare miliardi di dollari di moneta corrente e con quelli vogliono togliersi i debiti. Quali debiti? Beh, tutti quei paesi, Shell, devono tutti dei miliardi di dollari all'Occidente che non riuscirebbero mai a pagare, troppo poveri, questo lo sai. Loro sola speranza è l'inflazione mondiale, però un'inflazione gigantesca, un'inflazione tale che la carta moneta varrà così poco che sarà in rotoli nelle toilette. Mm. E siamo in linea con Stefano Liberti. Stefano, ci sei? Sì. Oh, intanto ben ritrovato. Grazie, anche a voi. Poi quest'oggi ti sentiamo come per il video inchiesta web Il lato oscuro del pomodoro italiano. Ci sei? Allora, intanto raccontaci un po' come nasce questo progetto, Stefano. Ma è un progetto multimediale che abbiamo realizzato l'anno scorso grazie a un finanziamento del European Journalist Center, che ci ha permesso a me e alla mia collega Matilde Villan di mettere insieme una squadra e di condurre un'inchiesta che è durata diversi mesi sulla filiera del pomodoro tra l'Italia e l'Africa. E cioè abbiamo ricostruito il percorso che una scatola di pomodoro concentrato proveniente dall'Italia compieva nel momento in cui veniva esportato. E questo perché abbiamo visto che il pomodoro prodotto in Italia viene spesso esportato in tutto il mondo, in particolare appunto nell'Africa occidentale. Il paradosso di ciò è che il pomodoro che viene esportato dall'Africa occidentale viene spesso raccolto in Italia, nei campi della Puglia per esempio, da cittadini di quei paesi in cui poi viene esportato, nelle condizioni che tutti sappiamo, cioè in condizioni di lavoro paraschiavistico, sottopagato e brutale. Cosa, intanto, come vi siete mossi e cosa avete scoperto? Ma noi siamo partiti, diciamo, l'idea iniziale è partita dall'Italia, appunto da alcuni lavori che entrambi avevamo fatto nel sud Italia, nei campi di pomodoro della Puglia. Poi abbiamo visto che appunto questo pomodoro andava nell'Africa occidentale e abbiamo formulato un'ipotesi perché in particolare il Ghana è stato e sarebbe tuttora un paese produttore di pomodoro. Il problema che abbiamo visto incrociando i dati è che il massiccio arrivo di pomodoro concentrato dall'Italia, in parte anche dalla Cina, coincideva con un calo fortissimo di produzione di pomodoro locale. Quindi quello che abbiamo ipotizzato noi è che ci fosse un rapporto di causa-effetto fra questi due fenomeni, e quindi grazie a questo finanziamento che abbiamo ottenuto siamo andati sul campo a verificare questa ipotesi, e in effetti abbiamo visto una situazione in cui nelle regioni dove una volta si produceva il pomodoro non si produce più, proprio perché il pomodoro europeo e quello cinese vengono venduti, il pomodoro concentrato, vengono venduti a prezzi molto bassi che di fatto fanno concorrenza sleale alle produzioni locali. Quindi negli ultimi 5-6 anni, quello a cui si è assistito in Ghana è la distruzione di un settore che diciamo negli anni precedenti era un settore che dava lavoro a molte persone, che era fiorente e che rappresentava un elemento importante dell'agricoltura locale. Quindi questo diciamo è il risultato di una serie di fattori, fra cui quello predominante è proprio le importazioni selvagge, il lavoro e l'effetto di dumping che è stato condotto dal pomodoro concentrato proveniente dall'estero. Quindi è un circolo vizioso, praticamente ci sono lavoratori migranti nelle nostre campagne che lavorano e poi il frutto di questo lavoro va nei paesi di cui sono originari e uccide il lavoro che lì sarebbe fiorente invece rispetto al... Sì, esattamente, poi il circolo vizioso si chiude ancora perché queste persone che a questo punto non trovano più lavoro e che vengono in questo modo allontanate dai campi in cui lavoravano, a volte emigrano e vanno o nelle città o nelle grandi città o addirittura vengono in Europa, e noi diciamo la nostra figura protagonista del lavoro che abbiamo condotto è proprio un bracciante ghanese che viveva nella regione produttrice pomodoro, che raccoglieva i pomodori in Ghana e che poi è partito per l'Europa e trova adesso intrappolato appunto nei campi del sud della Puglia, dove raccoglie pomodori, i quali pomodori poi trasformati in concentrato vengono esportati nel suo paese d'origine e contribuiscono quindi a alimentare ulteriormente quel circolo vizioso di cui parlavamo prima. Senti, dove vanno individuate le responsabilità principali? Ma diciamo che le ragioni sono varie e diverse. Allora, le responsabilità principali sono forse due. La prima è qui dalla parte nostra, cioè secondo la politica agricola comune vengono dati dei sussidi alle produzioni agricole, e quindi il pomodoro italiano, così come diversi altri prodotti alimentari agricoli dell'Unione Europea, sono sovvenzionati, e questo fatto che siano sovvenzionati permette quindi di esportarli a dei prezzi molto bassi, sommato al fatto che il costo del lavoro è molto basso, perché come è noto, diciamo, i braccianti nel sud Italia lavorano per 10 ore, anche lavorano a cottimo, cioè a quantità di pomodoro che viene raccolto, ma alla fine, facendo una media, diciamo, guadagnano per 10 ore di lavoro 20 euro al giorno. Quindi queste sono delle responsabilità dalla parte nostra, e sicuramente sarebbe più utile fare dei controlli nei campi, perché questo è un segreto di Pulcinella, tutti sanno come funziona il lavoro nella zona del, diciamo, nel distretto del pomodoro della Puglia, e sarebbe anche più utile fare un ragionamento su le sovvenzioni europee all'agricoltura, diciamo, che effetti hanno sui paesi in cui poi i prodotti vengono esportati. Poi c'è un secondo ordine di responsabilità, che è quello dei paesi ricettori, come in questo caso il Ghana, perché il Ghana pure ha fatto una politica di apertura del proprio mercato, abbassando o azzerando i dazi doganali, cioè le tariffe di importazione, e questo ha permesso quindi ulteriormente di abbattere i costi, e ha pregiudicato quindi le produzioni locali. Il combinato disposto di tutti questi fattori ha fatto sì che il settore del pomodoro locale è di fatto morto, e anche il settore non solo di raccolta dei pomodori, ma anche quello poi di trasformazione, perché in Ghana c'erano delle industrie di trasformazione del pomodoro, il pomodoro concentrato in passata, che tuttavia non hanno chiuso, anche perché, diciamo, non reggevano la concorrenza delle produzioni provenienti dall'esterno. Di contro, tu parlavi del pomodoro cinese ed europeo. Ecco, a fronte del fatto che l'Italia esporta in questi paesi, volevo sapere se lo stesso effetto avviene anche nel nostro paese, nel senso che vengono importati pomodori da altre parti e invece viene esportato in paesi come il Ghana, per esempio. Diciamo, il pomodoro come prodotto non viene importato, il pomodoro da tavola non viene importato, lavorato. Sì, quello lavorato ci sta tutto un giro, perché poi questa è anche la globalizzazione, e che a volte succede anche abbastanza spesso, che il pomodoro concentrato in realtà viene riconcentrato in Italia, un primo concentrato che magari è importato o dagli Stati Uniti, dalla California o addirittura dalla Cina. Quindi è molto difficile ricostruire, diciamo, tutta il percorso che viene fatto da questo pomodoro, perché il pomodoro concentrato italiano è per lo più un pomodoro che proviene dai campi italiani, ma ci sono anche dei casi in cui le ditte di trasformazione, che poi sono tutte concentrate nel distretto di Salerno, in Campania, importano pomodoro magari doppio concentrato dalla Cina o dagli Stati Uniti, e poi lo trasformano in triplo concentrato e poi lo riesportano altrove. E dal momento che è un prodotto che viene trasformato in un periodo di tempo rapido, e questo prodotto non paga le tariffe i dazi doganali di accesso nell'Unione Europea, perché transita solo nell'Unione Europea. E quindi sì, per rispondere alla tua domanda, diciamo, c'è tutto questo giro di prodotti che attraversano il mondo. E poi c'è anche, effettivamente, per ritornare al caso specifico di cui parlavamo prima, in Ghana c'è oggettivamente ormai una guerra commerciale molto forte fra il pomodoro concentrato italiano e quello cinese, che lo sta mano a mano soppiantando, perché ha una potenza di fuoco chiaramente più elevata. E quindi i produttori italiani, gli esportatori italiani lamentano la concorrenza da parte della Cina. I ghanesi lamentano la concorrenza sleale degli italiani e dei cinesi, gli italiani si lamentano dei cinesi, quindi c'è tutto questo gioco che si consuma sul terreno. E come avete strutturato online questo lavoro? Ma noi abbiamo deciso di fare un prodotto multimediale perché volevamo raggiungere, prima perché volevamo sperimentare questo nuovo tipo di fare giornalismo, cioè quello di abbinare testi con video, con animazioni, con grafici, e poi perché volevamo raggiungere un pubblico più ampio, tant'è che siamo usciti con questo documentario in 4 lingue su dei siti abbastanza visibili, cioè il documentario è uscito contemporaneamente su Al Jazeera in inglese, su Radio France Internationale in francese, su Internazionale in italiano e sul Paese in Spagna, e soprattutto abbiamo cercato, soprattutto quello riguarda il francese e l'inglese, dei siti che avessero un certo seguito nei paesi interessati, cioè per l'appunto nell'Africa occidentale. E abbiamo costruito questo documentario, l'abbiamo diffuso così, e poi questo ha dato luogo anche a pubblicazioni cartacee di vario genere e a una serie di altre cose, ma che audio documentari e via dicendo. Comunque il prodotto principale, il core product è il web documentario che abbiamo fatto uscire alla fine del giugno scorso, mm-hmm. e che ha avuto un buon riscontro un po' in tutto il mondo, nel senso che quando poi andiamo a vedere le amicizie su Facebook, i like su Facebook, sulla nostra pagina del progetto, vengono veramente da tutto il mondo, in particolare molti anche dal Ghana. In chiusura, ci lasci riferimenti internet, Stefano? Sì, c'è il riferimento internet, si può vedere in italiano sulla pagina di Internazionale, è webdoc.tomato, oppure si può andare sulla pagina, forse la cosa migliore, sulla pagina Facebook, si cerca la pagina Facebook The Dark Side of the Italian Tomato e lì ci sono tutti i riferimenti di tutte le link in tutte le lingue in cui è stato pubblicato. Benissimo, io ti abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Grazie a te, ciao. Ciao Stefano. Stefano Liberti, coregista della video inchiesta web Il lato oscuro del pomodoro italiano. Ora, una volta che avranno quelle matrici, quelle che ho rapinato io ieri, sì, che sono per dollari americani, loro potranno partire. Per far cosa? Cosa succederà quando cominceranno a stampare e a rovesciare improvvisamente sul mercato triliardi di dollari, di franchi e di marchi che saranno solo carta? Sarà il collasso per la fiducia nel circolante, vero, il panico universale, sì, e ci sarà la febbre dell'oro, l'obsoleto atonale, sì, il caos politico, sì, suicidi in massa, sì, vero? Sì. Sarà la Germania prima di... Te ne rendi conto? Sì. No? Ah, Shell... Che farà la gente quando la birra nella confezione a 6 lattine costerà $2,000? Ah, sarà tremendo. Tu credi che dica delle balle, vero? No, no, io no, no. Loro credevano che dicessi delle balle. Chi credeva che le dicessi? La CIA. Ah, glielo dissi. Ragazzi, la cosa da fare è rapinare la zecca degli Stati Uniti. Ma rapinarla professionalmente. Con banditi autentici, armi autentiche. Prendere le matrici, andare nell'America centrale, prendere contatto e smascherare quei bastardi. Lo trovarono troppo rischioso e mi hanno scaricato. Un momento, la CIA ti ha scaricato? Credevo che lo facessi per loro. Infatti. Ah, allora hai loro alle spalle. No, questa cosa l'ho fatta in proprio. Hai rapinato la zecca di Stato in proprio? La CIA l'aveva trovato troppo pazzesco e tu... Troppo rischioso. E tu non gli hai dato retta e l'hai rapinata con dei banditi. Hai commesso un reato federale. Ma sicuro che è federale? C'è di mezzo il Dipartimento del Tesoro. E che succede se ti prendono? Noi non ci prendono, basta che... Smetti con noi! Se prendono te, la CIA si farà avanti e dirà: quest'uomo lavora per noi. No. No? No, sono fuori casa per questa azione. Se mi arrestano, strappano la mia scheda e dicono: mai sentito nominare. E per me sono 20 anni di penitenziario. Eccoci con Cinzia Masotina dello Scrittoio per parlare della distribuzione del film Goltzius and the Pelican Company di Peter Greenaway, in uscita in sala oggi giovedì 22 gennaio. Cinzia, ben ritrovata. Ciao a tutti, ciao Federico, grazie. Allora, cosa dire? Siamo molto contenti perché con questo film abbiamo ricevuto il... così l'inaspettato, perché questa, devo dirlo, non è un'uscita classica, ma è un'uscita evento, perché come ricorderai forse tu, Federico, perché mi hai appunto intervistato qualche mese fa, esatto, l'idea di lanciare il film di Peter Greenaway, che non aveva avuto una distribuzione, diciamo così, ufficiale, né da major, sembrava allo scrittorio e al suo partner Maremosso, insomma, qualcosa che di assolutamente antidemocratico a livello culturale, cioè non, gli italiani dovevano vedere l'ultimo, l'ultima opera di Peter Greenaway, che fra l'altro ricordo è a Berlino con la sua prossima, col suo prossimo film. E quindi abbiamo iniziato questa avventura portandolo nei teatri, nei teatri di tutta Italia, con un grande intervento in pubblico. Però ovviamente noi siamo persone che facciamo cinema e vogliamo che le sale possano essere un po' liberate da questa continua e eccessiva attenzione al prodotto immediatamente commerciale. Greenaway è non soltanto un grande autore, è un autore che ha un grande pubblico diversificato, perché è un autore diversificato, e diciamo, e qua spero insomma che mi porti fortuna come ha portato fortuna la precedente intervista, che il pubblico dei cinema lo accolga come è stato in teatro, e insomma che sia nella quantità, nell'entusiasmo, quella che è stato nella tournée, diciamo così, teatrale di questo autunno. Senti Cinzia, per chi ci ascolta, chiaramente è un film di impianto teatrale con attori teatrali coinvolti, un grande sfarzo del barocco di Greenaway. Raccontiamo per chi ci ascolta e diamo delle indicazioni di trama, ecco. Allora, dunque, innanzitutto va detto che Goldius è effettivamente esistito nello stesso periodo di Shakespeare, è un incisore che usa la stampa per fare appunto queste immagini, e chiede che ha, come i mecenati hanno sempre fatto, chiede al margravio di Alsazia di poter essere finanziato per queste sue stampe della Bibbia. Queste stampe della Bibbia sono ovviamente quelle dei vizi capitali. Ecco quindi che Greenaway, al di là poi della messa in scena di cui ti e vi parlerò, parte come al solito da un elemento realistico e magari del passato, siamo quindi nel 1600, per parlarci del presente, di qual è il valore delle immagini, qual è il senso e qual è il confine tra arte e pornografia, cosa significa davvero il voyeurismo in chi guarda e spesso anche il relativo moralismo, e lo fa con questa messa in scena eccezionale, che mescola più generi e più ambientazioni, perché ricordiamo che questo film è stato girato in una antica stazione ferroviaria dismessa a Zagabria, e all'interno vi sono tutte le ambientazioni riccamente costruite, come tu giustamente hai detto, ma arriva anche, come al solito, l'incursione del Greenaway videoartista, quindi l'utilizzo di tecnologie, di effetti, di sovraimpressioni, dove la parola e l'immagine davvero diventano coagenti. Che dirti, oltre a Pippo Del Bono, che apre peraltro questo film, sono molti gli attori italiani coinvolti. Ritengo che questo sia un film, perché a questo punto dico anche il perché ci siamo convinti che era necessario, perché è come se davvero fosse la summa del linguaggio e del pensiero di Greenaway. Mm-hmm. Infatti io di fronte a certe critiche legittime di chi pratica ovviamente la critica cinematografica, dico: credo che questo sia un'opera immensa, ma non nel senso che è meravigliosa. L'immensità non ha a che vedere con la bellezza, anzi a volte può essere qualcosa che ci lascia stupiti, anche impauriti. Ecco, per me questo è Goldius and the Pelican Company, un'opera immensa. Senti, come sono le modalità di uscita? Allora, Cinzia, sarà appunto una sorta, posso dirlo così, definirlo un road show? Nel senso che sarà ad evento, ieri era a Modena, stasera sarà a Bologna, poi sarà a Firenze, Trieste, Venezia, a Roma torna, e torna in un teatro cinema molto particolare, cui io tengo molto, e quindi non abbiamo scelto la sala pura in questo caso, ma il Teatro Palladium, per tanti motivi, perché il Palladium è legato anche, come ben insomma sanno appunto i romani, a una politica culturale legata all'università Roma III, perché Vito Zagarrio ha immediatamente voluto questo film dopo averlo visto al Teatro Argentina di Roma, e perché anche questo è uno spunto di riflessione. Portiamo il bel cinema, portiamo i begli autori anche in posti che sono deputati alla cultura cinematografica, ma non necessariamente nella sala, se la sala cinematografica deve continuare a rispondere a logiche commerciali esclusivamente. Cinzia, ci lasci in chiusura i riferimenti internet per saperne di più? Ovviamente potete fare riferimento alla pagina Facebook dello scrittorio e alla pagina Facebook del film stesso, quindi Goltzius and the Pelican Company. Ovviamente per qualsiasi altra informazione potete andare direttamente sul sito dello scrittorio, che ricordo che assieme in questa avventura, insieme a me, c'è anche un altro autore regista che è Luca Lucini, che è appunto l'altra etichetta Mare Mosso, e insomma dobbiamo anche iniziare a chiederci perché degli autori decidono di distribuire. Come disse qualcuno nei confronti di Chaplin, non è che i matti stanno iniziando ad occupare il manicomio. Bene Cinzia, un abbraccio e a risentirci presto. Bene, grazie Federico e saluti a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Cinzia Masotina dello scrittoio per la distribuzione del film Goltzius and the Pelican Company, in uscita in sala giovedì 22 gennaio. Barry Lutz, controspionaggio, mi dica. Signor Lutz, potrò anche sembrarle un po' incoerente, ma quando le dirò la mia situazione credo che capirà il perché. Io mi chiamo Cornefet, sono dentista nella zona più vasta di New York, residenza New Jersey. Sono un normale patriottico cittadino americano. Io adesso mi trovo a Tiada. Sì, sono a Tiada, sì. Sono qui con un tizio che lavora per la CIA e il fatto è che mi ha coinvolto in un suo intrigo che riguarda un generale di qua giù. Beh, la mia vita è stata quasi sempre a repentaglio nelle ultime 24 ore. Mi sparano sempre e io sento che non ce la faccio più. Senti, carino, se vuoi chiamare la polizia, chiamala, ma poi ricordati che sono un branco di falliti impotenti, oh? Ok? Eccoci con Erika Rossi, co-regista del documentario Il viaggio di Marco Cavallo. Erika, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, è un documentario che è stato presentato al Trieste Film Festival pochi giorni fa. Di cosa si tratta, Erika? Dunque, Il viaggio di Marco Cavallo racconta, come dice il titolo stesso, un viaggio che è stato organizzato da un comitato di associazioni che va sotto il nome di Stop OPG per sostenere la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ancora presenti sul territorio italiano. Novembre scorso questo viaggio è partito da Trieste, condotto, capitanato da Marco Cavallo, che è un enorme cavallo di più di 2 metri di cartapesta e legno, che è stato costruito più di 40 anni fa all'interno del manicomio di Trieste, dagli internati del manicomio di Trieste, che è divenuto poi il simbolo della rivoluzione basagliana, perché in quegli anni a Trieste c'era Basaglia che apriva le porte e dava il via a quella che fu poi la riforma che ha portato poi alla legge Basaglia nel 78. Quindi lo stesso cavallo a 40 anni di distanza si è rimesso in viaggio per ancora una volta per combattere insomma l'esclusione e queste istituzioni che sono ormai incostituzionali e anacronistiche. Oh, tra l'altro aggiungo che prima di questa di questo itinerario il Marco Cavallo era stato anche al Teatro Valle Occupato, e questo grazie anche a Fabrizio Gifuni, che su Basaglia aveva interpretato una fiction televisiva. Sì, assolutamente vero, una bellissima fiction diretta da Marco Turco, che direi ha un po' fatto conoscere al grande pubblico il personaggio di Basaglia, che è sempre rimasto un po' misconosciuto, insomma, per il grande pubblico. Invece grazie al bel film interpretato da Gifuni, insomma, la storia di Trieste è arrivata, insomma, nelle case di tanti, sempre troppo tardi, mi viene da dire. Erika, volevo comunque Marco Cavallo negli anni ha sempre girato, perché ripeto è un po' il simbolo, il portavoce di quella che è stata la situazione, l'esperienza triestina, ma ha sempre sostenuto situazioni, insomma, diciamo così, di contestazione o di ribellione verso l'istituzione. E quali sono state le tappe di questo viaggio? Allora, i manicomi criminali in Italia sono 6 e sono ad Aversa, Secondigliano, Reggio Emilia, Castiglione delle Stiviere, e Firenze, e ne sto dimenticando uno in questo momento, e Milano. Il Cavallo ha fatto un viaggio di 16 giorni, non è entrato solo nei manicomi criminali, ma è stato un viaggio organizzato, una vera e propria campagna, per cui ci sono state tappe anche, come dire, più simboliche, come all'interno dell'Università di Napoli Federico II abbiamo fatto un incontro con gli studenti di giurisprudenza, così come a Torino, ma il Cavallo è entrato anche, ha incontrato il presidente Grasso, il presidente del Senato Grasso a Roma, al Senato, mentre all'interno dei manicomi l'ingresso, diciamo così, era un po' una situazione organizzata, cioè il Cavallo ha avuto il permesso di entrare insieme al gruppo di persone che lo accompagnano, in particolare Peppe Dell'Acqua, lo psichiatra, diciamo che più erede, insomma, dell'esperienza basagliana, che nel film diventa un po' la voce del Cavallo, e il film racconta, insomma, un po' gli ostacoli, tutte le insomma il percorso che è stato fatto e le difficoltà, insomma, che ci sono state oggettive durante il viaggio, ma anche la grande voglia di riuscire a portare a casa un risultato positivo che poi alla fine è stato ottenuto dopo il viaggio. Ecco, in parte già hai risposto alla domanda che intendevo farti sul come è costruito il documentario. Ma il documentario veramente segue l'iter del viaggio, è come abbiamo scelto di raccontare, che rende, insomma, secondo me il nostro lavoro, insomma, valevole, nel senso che i nostri sguardi, quello mio e di Giuseppe, che è il coregista, Giuseppe Tedeschi, sono sguardi un po' vergini, non addetti ai lavori, quindi esattamente quello che noi abbiamo provato ad entrare in questi luoghi così pregni di cultura carceraria, quindi non luoghi di cura, dove noi non siamo stati accolti, insomma, questa armata Brancaleone, mi viene da dire, veniva un po' inserita in quasi in dei siparietti organizzati, e non abbiamo avuto la possibilità di interloquire veramente con gli internati, né tantomeno con le persone che lavorano all'interno di queste strutture. Quindi abbiamo raccontato più visivamente la nostra atmosfera, l'emozione di chi si trovava di fronte a questi visi, a queste storie e a questi luoghi. Quindi direi forse che è quasi un racconto d'immagine, cioè abbiamo scelto di non spettacolarizzare il dolore o la sofferenza davanti a cui ci siamo trovati, ma di raccontarlo un po', insomma, con il linguaggio visivo. Abbiamo avuto a che fare anche con altri lavori, uno in particolare uscito di recente sugli OPG che descrivono una realtà che raccoglie il peggio delle strutture carcerarie italiane. Ecco, dicevi il risultato è stato raggiunto, anche se poi nel tempo è stato continuamente posticipato. Ci sono buone prospettive per la chiusura definitiva, Erika? Sì, come ti dicevo, dopo il viaggio, il 28 maggio scorso, finalmente il Parlamento ha rivotato la decisione per la proroga della chiusura degli OPG. L'ultima proroga è stabilita per il 31 marzo 2015, però il Parlamento ha votato, insomma, una revisione generale delle condizioni per cui si finisce in OPG. Quindi, al di là della proroga, è stata rivista un po' tutta la legislazione che regola l'internamento o la cosiddetta misura di sicurezza, che poi è il periodo che una persona può ritrovarsi a scontare, insomma, all'interno di questi luoghi. Ecco, che fino ad ora poteva raggiungere anche un tempo indefinito, dando luogo al cosiddetto ergastolo bianco. Sì, sì. Quindi una persona poteva essere prorogata all'infinito, e questo vizio giuridico rendeva questi luoghi ancora più disumani insomma, insensati. Ecco, cosa comporterà la chiusura? I casi come verranno affrontati? Ma la legislazione prevede di passare il testimone alle regioni, e quindi ogni regione deve, entro la chiusura, attrezzarsi per gestire queste situazioni con le strutture che ha già presenti sul territorio, cioè i centri di salute mentale 24 ore su 24, e dove questi non siano presenti, creare delle strutture nuove, ma che vivano ma siano gestite in modo diverso, insomma, da come sono gestiti i manicomi criminali, che fondamentalmente sono delle carceri, insomma, sì, e sì, non dei luoghi di cura. Quindi ripeto, io non è la mia professione, quindi rimando un po' la risposta a chi di dovere, quindi a psichiatri o giuristi, perché non conosco così a fondo, insomma, la legge che è stata promulgata e come sarà la situazione. Però, per quello che ho visto seguendo il viaggio, dovrebbe essere così. In chiusura, Erika, ci lasci i riferimenti internet per saperne di più sul vostro lavoro, per esempio su un calendario di proiezioni o partecipazioni a festival? Ma in questo momento, allora, noi stiamo costruendo il sito, perché fino adesso, cioè, il film è esordito al Torino Film Festival a novembre, e adesso è appena stato a Trieste, prossimamente sarà il Festival allo Spiraglio a Roma. Però in internet si può trovare, insomma, il trailer su Vimeo, Il viaggio di Marco Cavallo, e appena sarà online il sito sarà Il viaggio di Marco Cavallo.it. Benissimo. Erika, ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, ciao. Erika Rossi, co-regista del documentario Il viaggio di Marco Cavallo. Perché avete abbandonato le vostre case? Perché voi le avete distrutte, spesso con dentro i loro abitanti. Vi avevamo ordinato di ritirarvi nelle riserve. Nelle riserve? Il mio popolo muore di fame. Ci avete promesso lavoro, scuole per i nostri figli, ospedali, in cambio di quel che ci avete rubato. Questa non è una risposta. E anche se fosse una risposta, essa non vi darebbe il diritto di occupare il grande buco delle colline nere. I grandi buchi della collina nera sono le uniche cose che ci rimangono. Il mio paese non vuole la guerra! Allora perché sei qui, macellaio di indiani? In nome del mio governo vi ordino di tornare nelle riserve entro la prossima luna. Se non obbedirete sarete dichiarati ostili, e cioè ribelli e nemici del nostro paese. Sarete quindi responsabili di tutto ciò che vi accadrà. Oh. Ed eccoci con Franco Montini. Franco, ci sei? Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Allora, ti volevo anche rendere partecipe di questa, di questo gioco che facciamo tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno successivo rispetto alle cinquine, con colleghi e amici, critici cinematografici e giornalisti, i cinque film tra quelli usciti in sala che abbiamo preferito, con la possibilità anche di menzionare alcuni titoli italiani se non sono inseriti nella cinquina. Oh, giorni fa ho visto sul giornale che hai riportato un po' il bilancio di quest'annata cinematografica, e allora ti chiedo di fare altrettanto in diretta, Franco, rispetto al 2014, un bilancio dell'annata cinematografica. Ma è stato un anno difficile per il cinema italiano, poi non solo per il cinema italiano, perché anche in America per la prima volta, insomma, si è registrato nel 2014 un consistente calo di presenze, circa il 15%. Per quanto riguarda l'Italia, credo che questo motivo di questa perdita sia stato determinato dal fatto che quest'anno è mancato, come era successo invece nel 2013, la presenza di un film, come dire, fenomeno, di un film evento in grado da solo di cambiare l'esito di una stagione. Nel 2013 era uscito solo a Catinelle con Checco Zalone, che aveva da solo portato in sala 8 milioni di spettatori, quest'anno aveva incassato 50 milioni di euro, quest'anno il film campione d'incasso ne ha incassati 14. E questo ha determinato appunto un calo di presenze, si sono persi in Italia circa 6 milioni di presenze rispetto all'anno scorso. Poi ci sono altri motivi che hanno contribuito a questo deficit, in particolare una demenziale politica distributiva che continua a far uscire un'infinità di film molto simili, spesso anche identici quasi interamente nel cast, in periodi molto ristretti. Quest'anno è successo fra ottobre e novembre, e compenso da maggio a ottobre in sala non c'era un film italiano in grado di suscitare, come dire, un interesse popolare. Insomma, sono discorsi che facciamo da anni sull'allungamento, sulla necessità di allungare la stagione. Ogni anno ci sono promesse da parte dei distributori che qualcosa cambierà, e poi invece concretamente cambia poco e cambia niente. Mm-hmm. Quest'anno, anzi, in particolare l'estate è stata più povera del solito. Mm-hmm. E tutto questo naturalmente si ripercuote poi sugli esiti economici e commerciali di una stagione. Mm-hmm. Senti, l'offerta più in generale, la qualità com'è stata? Ma guarda, io credo che ci sia una grande crescita delle cinematografie, come dire, più nuove, emergenti. Per il cinema italiano non è stata una grande stagione, ma non l'è stata neanche per il cinema americano. Ma d'altra parte credo che il cinema americano, tranne così qualche meritevole eccezione, ormai punti a un certo tipo di prodotto fatto esclusivamente per i mercati cinesi, indiani, russi. Cioè non ci sono più film di qualità, ma ci sono questi giocattoloni, tutti effetti speciali, che in Europa e in Italia in particolare funzionano sempre meno, ma che stanno trovando grande interesse nel pubblico appunto di questi paesi asiatici. E credo che questo sarà così anche nei prossimi anni, insomma. Quindi attrezziamoci a guardare altrove. E ripeto, invece credo che le cose più interessanti, più innovative e anche più divertenti certe volte vengano proprio dalle cinematografie non tradizionali. Mm-mm. I tuoi cinque, Franco? Ma allora, ho fatto un attimo mente locale, i miei cinque, e adesso mi rendo conto che quello che ho detto finora trova conferma nelle mie preferenze. Allora, io anche con una breve spiegazione, insomma. Sì, io segnalerei innanzitutto Il Regno d'Inverno, il film turco di Nuri Bilge Ceylan, che ha vinto a Cannes. Sì. Perché è un film stranissimo, come del resto i precedenti di questo regista, cioè un film dove apparentemente non accade nulla, con dei ritmi lentissimi, e dove però non riesci a staccartene, cioè non, è un fatto un po' misterioso, credo, cioè ha una capacità di creare delle situazioni, come dire, molto molto tese, molto coinvolgenti, molto inquietanti, tutte basate in realtà sul nulla, con uno stile molto personale, con una grande capacità narrativa, quindi si conferma secondo me un grande regista, e questo film, che se non ricordo male dura quasi 3 ore, però è veramente un'immersione in un mondo completamente diverso dal nostro e particolarmente curioso. Poi segnalo Class Enemy, che è un film di un regista sloveno, Rok Bicek. È un film che era stato presentato nel 2013 alla Settimana della Critica di Venezia, ma è uscito in sala da noi con un anno di ritardo nel 2014. Il genere scolastico è, come dire, proprio un genere tipico del cinema, e questo secondo me è l'esempio migliore, almeno di questi ultimi anni, cioè il rapporto fra gli studenti e un professore, dove si evitano assolutamente toni manichei. Questo professore appare all'inizio davvero l'incarnazione della malvagità, del male, e poi invece si rivela man mano che la storia procede un professore in grado di offrire davvero un'esperienza diversa agli alunni. È un film drammatico, molto teso. Ha avuto una piccola distribuzione in Italia e merita secondo me di essere visto o riscoperto, chi ancora non ha avuto occasione di vederlo. Tra l'altro abbiamo avuto ospite proprio la distribuzione, perché ero rimasto impressionato favorevolmente da questo film, che spiazza rispetto ai ruoli, come dicevi tu, rispetto al corpo docente, rispetto agli alunni, un cambio di prospettiva nel corso del film che si fa sempre più pressante, insomma. Sì, io ricordo un altro film sulla scuola recente, Monsieur Lazare, che però era più prevedibile, più insomma un altro bel film, per carità, però molto prevedibile nello svolgimento. Questo invece è esattamente imprevedibile, quindi ha una, come dire, un'accelerazione in più, ecco. Un terzo film che segnalo è il film dei fratelli Dardenne, 2 giorni 1 notte. È un film sul mondo del lavoro e soprattutto sulla dignità del lavoro, ecco, in un momento in cui il lavoro è davvero un problema di tutti e dove la dignità dei lavoratori viene continuamente messa in discussione. Ecco, questo è un grande film che dimostra come non bisogna perdere la dignità nel momento in cui ti ritrovi in situazioni anche molto drammatiche. È un film, tra l'altro, molto molto vero, che mette a confronto una lavoratrice, un'operaia che viene licenziata e che cerca conforto appunto dai suoi colleghi, e c'è da parte di tutti una paura e una crisi di coscienza di fronte a una scelta difficile che devono compiere. Mm-hmm. Tra l'altro con un finale bellissimo, perché a un certo punto tu ti chiedi come finirà, ti vengono in mente 2 soluzioni e invece i fratelli Dardenne, con grande maestria, con grande genialità, se ne inventano una terza. Sì. Quarto film, Mommy di Xavier Dolan, forse, come dire, il film più nuovo, più trasgressivo, più innovativo, più imprevedibile della stagione. Io credo che Dolan sia davvero, come dire, l'astro emergente del cinema internazionale. È un film sul disagio psichico ed è raccontato in maniera curiosissima, tra l'altro anche dal punto di vista tecnico e formale, con una scelta di dimensioni dello schermo che si aprono e si chiudono a secondo se l'interesse viene riportato sui personaggi o si allarga anche al resto. Film per, soprattutto per i cinefili, ma anche un film molto emozionante, perché poi alla fine affronta e analizza dei rapporti familiari che quindi appartengono all'esperienza di tutti, insomma. E siamo a 4. E allora, per finire, mi piace comunque segnalare un film italiano, tra i film italiani usciti in questa stagione ho scelto il film di Francesco Munzi che era a Venezia, Anime Nere. È una sorta di tragedia greca in chiave contemporanea. La cosa che più mi ha colpito, oltre a una ambientazione, una messa in scena assolutamente originali, è il fatto che un film tutto basato su una serie di attori molto poco noti e molto poco popolari, che dimostra come in Italia esista invece un parco attori, interpreti di grande qualità, e che non è vero che si possano, si devono, si è costretti a fare i film sempre con quei 4-5 nomi. Ecco, il fatto che questo film abbia dimostrato questo aspetto mi pare un altro elemento importante da tenere in considerazione. Ho considerato questo tuo ultimo voto, allora ti dico, Franco, che eravamo, compreso te, in 17 per queste cinquine. Il più votato in assoluto è stato Boyhood, che tra l'altro riesce oggi in sala, sì, anche in seguito alle molteplici candidature all'Oscar, e il film italiano si piazza anche al secondo posto, tra l'altro è proprio Anime Nere di Francesco Munzi. Sì, sì, beh, Boyhood, per carità, non voglio dire, le scelte così ristrette di fronte ad una proposta di quanti sono, 350, 400 film che escono, sì, in un anno, costringe sempre a essere, come dire, drastici, e qualcuno di questi film, voglio dire, potrebbe essere sostituito da qualche altro titolo altrettanto valido, insomma. Certo. Però mi fa piacere che Anime Nere sia stato, sì, sì, sì, sì, così apprezzato anche da altri colleghi. Ho, insomma, chiamato anche nuovamente Munzi per dirgli del risultato, insomma, e sta andando bene anche all'estero il film, sono molto contento. Sì, sì, no, questo appunto poi dimostra anche, confermo una volta di più, che per, come dire, interessare i mercati internazionali non necessariamente bisogna fare dei film internazionali, cioè i film italiani che hanno funzionato di più all'estero sono stati sempre film che hanno raccontato piccole storie molto locali, ma che in qualche modo assumono, come dire, un carattere universale. Mm-hmm. Franco, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. D'accordo, un saluto a tutti, arrivederci. Franco Montini per la sua cinquina dei film usciti in sala nel 2014. Non sono del vostro rango, signor Marchese, ma l'amore si ribella alle differenze imposte agli uomini da una società iniqua. Ah, avete sentito? Allora, che aspettate? Che abbia terminato. Interessante quello che dice. È una rivolta! No, signor Marchese, è una rivoluzione! Le anime semplici comprendono che il regno dei privilegi volge alla fine! È tempo di distruggere la roccaforte della tirannia, di aprire le porte di questa prigione, le cui mura sono bagnate dal pianto degli innocenti! Prenderemo la Bastiglia! Alla Bastiglia! Alla Bastiglia! Si mettono sbarre alle finestre, si installano sofisticati marchingegni, sistemi di sicurezza tecnologici. Guardo lui e dico, non è sufficiente. Parliamo di film in uscita, lo facciamo con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare del film Matteo, che esce proprio in sala oggi, giovedì 22 gennaio. Paolo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ben ritrovati a voi, grazie per avermi chiamato anche per questa uscita. Siamo contenti di poter presentare da oggi questo film che ha vinto il Grifone di Cristallo a Giffoni, e quindi un film particolarmente adatto anche a un pubblico più giovane. Ecco, per chi ci ascolta diamo qualche indicazione di trama. Sì, dunque, Matteo è il nome del titolo del film, è il nome del protagonista, che è un ragazzo che lavora con lo zio con una organizzazione criminale in una regione della Colombia, che è la regione del Magdalena Medio. E però frequentando la scuola naturalmente produce molte assenze, si comporta male, perché naturalmente vive più la vita del criminale che la vita del ragazzo normale. La scuola, come punizione, come sanzione per recuperare le assenze, lo obbliga a frequentare un gruppo di teatro, che è un gruppo di teatro che realmente esiste in Colombia, in quella regione, che fa attività sociale, che è guidata tra l'altro da Guido Ripamonti, che è un italiano, un milanese che si è trasferito lì da molti anni e sviluppa questa azione culturale, sociale molto importante, molto interessante. Nel film la guida del gruppo di teatro è un sacerdote, un prete, perché la regista Maria Gambò ha voluto ricordare la figura di un prete che faceva anche questa attività in precedenza e anche in altre regioni. Ora Matteo, frequentando questo gruppo di teatro, si apre ad un mondo diverso, quindi vede la vita con possibilità diverse rispetto a quelle che conosceva prima. Ecco, e quindi la scoperta della vita, della varietà della vita, delle altre persone, dell'amicizia, dell'amore, è la storia di questo film sostanzialmente. Oh, per quanto riguarda Cineclub Internazionale Distribuzione, Paolo, ci parli di questa avventura? Sì, dunque noi con Matteo siamo già al secondo film di questa stagione e siamo al terzo film consecutivo diretto da donne. Ecco, questa è una particolarità che mi interessava sottolineare, perché Inde Bugema, poi Mariana Rondone e adesso Maria Gamboa, ma siamo alla terza stagione cinematografica e diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti, perché stiamo ottenendo una crescita lenta ma importante, che ci consente di essere in campo a tutti gli effetti nell'offerta al pubblico di prodotti cinematografici che possono essere vere e proprie opere che possono toccare il cuore di questo o quello spettatore. Noi continuiamo a perseguire la linea anche della versione originale, perché la versione originale per noi è quella più emozionante, più toccante, e vogliamo invitare il pubblico a credere che effettivamente il sottotitolo lo si possa leggere velocemente, in realtà poi c'è anche il tempo per guardare l'immagine. E Matteo in particolare è un film che emoziona molto, perché emoziona quando tocca i temi della comunità, dell'essere solidali. È ambientato in Colombia ma potrebbe essere ambientato dovunque, tant'è vero che noi vogliamo ricordare anche con questo film Pino Puglisi, Don Pino Puglisi e Don Peppino Diana, che sono due sacerdoti che coraggiosamente hanno portato avanti delle azioni sul territorio, azioni sociali, e che non necessariamente sono azioni che devono essere portate perché c'è la criminalità. Comunque l'attività sociale, che sia il cinema, che sia il teatro, che sia altro, l'attività socioculturale è fondamentale per la coesione sociale, indipendentemente che ci siano più o meno emergenze criminali, secondo noi. E quindi da questo punto di vista anche la collaborazione, in questo caso col Festival di Giffoni, secondo me è molto importante, perché il Festival di Giffoni è un'eccellenza italiana che va rilanciata e va sostenuta e supportata. Paolo, come avete incontrato Matteo e poi come avete scelto di distribuirlo? Beh, Matteo, noi naturalmente come tutti i distributori seguiamo i mercati di Berlino e di Cannes, che sono i due più grandi mercati cinematografici al mondo, e quindi in queste occasioni alcuni distributori internazionali propongono delle opere, dei film che possono ritenere interessanti per noi. Noi anche seguiamo comunque le programmazioni dei festival, e quindi in questo caso questo ci sembrava, appunto per i motivi che ho detto, particolarmente interessante per il pubblico italiano. E poi la selezione anche del Festival di Giffoni è stata per noi una scelta comunque importante che ci ha portato anche ad andare a Giffoni a luglio scorso insieme a Maria Gamboa, e poi la vittoria del premio è stato un ulteriore suggello. Quindi noi cerchiamo di scegliere anche in base alla capacità di emozionare, ma anche a una certa visibilità che può avere il film, visibilità naturalmente non da blockbuster o commerciale, anche perché anche volendo non ce lo potremmo permettere, ma una visibilità di tipo tematico, culturale e anche cinematografico, artistico. Paolo, in quante copie esce Matteo? Ma noi usciamo col nostro solito standard, che si aggira sempre tra le 10 e le 15 copie in prima settimana, dopodiché la seconda settimana si aggiungono altre sale e poi in base anche al risultato del pubblico andiamo crescendo. Ecco, ricordo che il film precedente, Pelo Malo, ancora continua a uscire in alcune sale, quindi dopo 3 mesi. Quindi questo è molto importante, molto incoraggiante per noi, e quindi contiamo di fare anche lo stesso tipo di uscita lunga, si dice tecnicamente, che si confà meglio a una piccola distribuzione come la nostra. T'abbraccio e a risentirci presto. Grazie altrettanto, un saluto a voi, a presto. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlarci del film Matteo, in uscita in sala oggi giovedì 22 gennaio. Chi sei? Un maledetto progettista dell'involucro esterno. Hai costruito costruito questa cosa? No, solamente l'esterno. E non so niente dei numeri, né di altro dell'interno. Sono stato incaricato di progettare un involucro vuoto. Per l'amor di Dio, Will, tu sapevi che cos'era? No. Non era così all'inizio. Che c'è dietro? Non lo so. Chi ti ha pagato? Non l'ho chiesto. Non ho mai messo piede fuori dall'ufficio. Ho sentito al telefono delle persone, altri come me, specialisti che lavoravano su piccoli dettagli. Nessuno sapeva cosa fosse. Nessuno lo vedeva. È la loro tattica. Tutti separati, così che la sinistra non sappia cosa fa la destra e la mente non corre alcun rischio. Quale mente? Quella che comanda ogni cosa, capisci? Il Pentagono, le grandi multinazionali, la polizia. Si fa un lavoretto insignificante, per esempio costruire un aggeggio in una città qualsiasi, e in seguito si viene a sapere che quell'aggeggio in realtà è un componente essenziale di una macchina di morte. Ecco, abbiamo in linea Letizia Gullo, co-regista del documentario Mare Magnum. Letizia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Torniamo a parlare tra l'altro di Lampedusa, perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa per quanto riguarda un documentario inchiesta su uno dei tanti sbarchi tragici delle tragedie del mare che caratterizzano purtroppo quest'isola. Allora, Mare Magnum. Per chi ci ascolta, di cosa si parla, Letizia? Allora, Mare Magnum è un documentario che noi abbiamo girato nel 2012 durante la campagna elettorale per le elezioni comunali a Lampedusa, e dell'anno in cui ha vinto Giusy Nicolini, l'attuale sindaco. E l'idea, diciamo, è stata quella di seguire la campagna elettorale perché ci sembrava un buon pretesto narrativo per raccontare l'isola in tutte le sue sfaccettature, nel senso che ci interessava, oltre ovviamente a parlare dei migranti, anche parlare dell'isola da un punto di vista più interno. E ovviamente durante la campagna elettorale vengono fuori, insomma, tutta una serie di tematiche, perché chiaramente Lampedusa, oltre a gestire, diciamo, questo problema di scala globale, è anche una piccola isola, una comunità di 5.000 abitanti, tra l'altro è l'isola italiana più lontana dalla terraferma, quindi diciamo è anche una comunità che ha una fragilità in sé, e si trova ovviamente al centro del Mediterraneo, e quindi è nota alle cronache perché è la porta d'Europa involontaria, però diciamo è riuscita negli anni ad organizzare un sistema di accoglienza che ha funzionato molto bene sino al 2011, quando poi c'è stata l'emergenza in seguito appunto alla primavera araba, perché sono arrivati a Lampedusa migliaia e migliaia di persone appunto in fuga dalle coste africane, e lì la situazione è stata ben più complessa, perché il centro era chiuso, quindi queste persone sono rimaste all'addiaccio praticamente, e i lampedusani hanno dovuto gestire da soli questa emergenza, completamente abbandonati dal governo nazionale, dall'Europa, e veramente erano proprio in primissima linea, c'era un numero di migranti pari al numero degli abitanti, ed è stato proprio un po' questa emergenza del 2011 che ha acceso ancora di più il nostro interesse verso l'isola, e proprio per questo, proprio perché appunto gli abitanti hanno assunto un ruolo, diciamo, di primo piano in quell'occasione, l'idea è stata appunto quella di raccontare Lampedusa in tutte le sue sfaccettature, appunto non solo come luogo di approdo e di passaggio, ma anche appunto come luogo che ha una vita, è una, diciamo, in sé. Letizia, ecco, volevo sapere proprio a questo proposito, quanto tempo vi siete fermate sull'isola e cosa avete girato? Sì, allora noi siamo rimaste 2 mesi sull'isola, siamo arrivate all'inizio della campagna elettorale, abbiamo seguito tutta la campagna elettorale e siamo rimaste poi una settimana dopo la vittoria di Giusy, e abbiamo seguito tutti i candidati, che erano 4, ed erano Giusy, Dino De Rubeis, che era il sindaco uscente, Bruno Siragusa e Totò Martello. Quindi il film racconta proprio la campagna elettorale, diciamo i personaggi, i protagonisti principali del film sono appunto i 4 candidati, però chiaramente sullo sfondo si intrecciano anche altre storie, nonché appunto ci sono ovviamente anche delle scene insomma di sbarchi, di arrivi dei migranti, è questo. Mm-hmm. E l'approccio che abbiamo dato al nostro racconto è quello del documentario di osservazione, quindi non ci sono interviste, abbiamo proprio seguito gli eventi come si svolgevano, e quindi di fatto appunto anche noi eravamo diciamo in balia appunto dei risultati e degli eventi della campagna elettorale, che abbiamo seguito con lo stesso con la stessa partecipazione ovviamente degli abitanti. Ed è stata una campagna elettorale molto importante, perché appunto Giusi Nicolini insomma è riuscita a farcela, e lei è un personaggio appunto sicuramente molto positivo, perché era fondamentale che in quel momento storico appunto fosse una persona come lei a prendere in mano le redini della situazione, appunto perché è stata la prima campagna elettorale subito dopo questa emergenza del 2011. Ecco, proprio a questo proposito, Letizia, che tipo di umori avete raccolto e percepito? Allora, la ferita del 2011 era veramente molto molto aperta, e c'era un bisogno di cambiamento, e Giusi incarnava decisamente questa necessità di cambiamento e di avere diciamo una figura politica che fosse all'altezza della gestione della situazione, perché appunto il paradosso molto forte di Lampedusa è che appunto è una comunità molto piccola, e quindi anche diciamo i suoi rappresentanti sono quelli di un paesino siciliano di poche migliaia di abitanti, però è chiaro che la necessità è quella di avere invece una persona che ha come dire una caratura diversa, e quindi appunto la vittoria di Giusi sicuramente è stata anche frutto appunto dell'emergenza vissuta in quel periodo, in cui appunto gli abitanti si sono sentiti veramente abbandonati. A Lampedusa poi diciamo c'è un tasso di illegalità molto alto, e sicuramente appunto la Giusi, che invece portava avanti dei valori molto positivi di legalità, è un ecologista, quindi di attenzione anche al territorio eccetera eccetera, incarnava appunto veramente un cambiamento molto molto forte, nonché chiaramente il suo occhio, il suo atteggiamento rispetto alla gestione degli sbarchi è super illuminato ed è ovviamente di accoglienza, quindi diciamo abbiamo sentito proprio questa, erano veramente le elezioni in cui c'era in gioco una posta molto importante. Letizia, ecco, rispetto anche al periodo in cui voi siete state lì, ad oggi che trasformazioni ci sono state? Sono cambiate tantissime cose, perché intanto il periodo in cui noi siamo state là, appunto il centro era ancora chiuso e Lampedusa era stata dichiarata porto non sicuro, quindi gli sbarchi erano molto pochi. E nel frattempo poi c'è stato ovviamente il naufragio del 3 ottobre, è partita diciamo l'operazione Mare Nostrum, che è dopo un anno è stata smantellata, adesso c'è appunto Triton, e quindi diciamo la situazione in questi anni si è trasformata molto molto. Durante l'operazione Mare Nostrum, che è stata comunque difesa, anche se ovviamente è il tentativo di salvare una situazione che è strutturalmente complessa e che dovrebbe essere diciamo cambiata all'origine, cioè diciamo chi arriva in Italia perché scappa da guerre, da situazioni estremamente complesse, dovrebbe poter arrivare in maniera diciamo normale senza affrontare questi viaggi terrificanti, e quindi adesso diciamo la situazione di Lampedusa è un po' diversa, perché con l'operazione Mare Nostrum le imbarcazioni che venivano salvate nel Mediterraneo venivano portate direttamente in Sicilia, anche per non caricare chiaramente questa piccola isola di questo peso, per cui insomma appunto la situazione è molto molto diversa rispetto a 2 anni fa. Senti, il titolo Mare Magnum? Allora, il titolo Mare Magnum è ovviamente diciamo un'evocazione chiaramente del mare, Mare Magnum perché anche in italiano noi lo usiamo per dire confusione, e quindi insomma ci era sembrata una buona sintesi appunto sì della complessità insomma della situazione, dei vari livelli e dei vari piani appunto che ci sono in quella piccola isola. Senti, è stato al Salina Dock Fest e volevo chiederti a questo punto se ci lasci dei riferimenti anche rispetto a un calendario di proiezioni o presentazioni. Allora, dunque, noi intanto il film è stato presentato in anteprima al Cinema di Aurel, che è un festival parigino molto importante che si svolge al Pompidou, e poi siamo stati in Italia al Biografia Film Festival, Sania Film Festival, Festival Internazionale, e poi a Roma appunto c'è stata una proiezione al Chino ad ottobre, e adesso diciamo ancora purtroppo non ho delle certezze perché stiamo aspettando varie risposte per i festival dell'anno nuovo, e quindi non so darti ancora date precise, però insomma incrociamo le dita e speriamo che continui a girare e appunto ad avere più proiezioni possibili sia in Italia che in Francia, soprattutto siccome è una produzione francese il film, noi siamo stati finanziati da una casa di produzione francese, abbiamo avuto moltissime proiezioni appunto in Francia e in Italia soprattutto. E avete uno spazio internet? No. Ammetto. Al momento. Vabbè, ci farai sapere comunque. Assolutamente, assolutamente. Un abbraccio e a presto, Letizia. Grazie mille, a ciao. Presto, buon pomeriggio. Ciao, ciao. Ciao. Letizia Gullo, co-regista del documentario Mare Magnum, dovremmo avere un ultimo collegamento. Che cosa ha fatto questo funerale? È in sera consacrata, legittima difesa. Sono un agente di polizia, voglio solo farle qualche domanda, signora. Sparisci! Che diavolo sta cercando di fare? Vuole sfondare questo schifo di porta? Gli faccio vedere il suo distintivo, anche se tanto la cosa non vale un cazzo. A volte penso che lei non abbia le palle per questo lavoro. Può darsi, ma rispetto a lei ho il vantaggio di non doverle usare per pensare. Vi leggo qui quanto Pierpaolo scriveva il 14 novembre 1974. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia, di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni, assicurato la protezione politica a vecchi generali, a giovani neofascisti e infine a criminali comuni. Bene, non era in scaletta, però sentiamo nuovamente Paolo Fazzini. Ci sei, Paolo? Sì, salve. Ben ritrovato. Beh, Visionari anche a voi. Su Radio Onda Rossa. Allora, Paolo, mi parlavi di un'uscita. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Sì, è appena uscito in DVD un'antologia di cortometraggi che ho curato e nella quale sono presente anche con un corto, un'antologia di corti, uno direbbe l'ennesima, invece magari no, perché qualche tempo fa mi sono accorto che non esisteva nell'era florida del digitale, del DVD, del Blu-ray, non esisteva un'antologia di cortometraggi, diciamo underground, diciamo così, relativi al periodo 80-90, diciamo il periodo dell'analogico, se vogliamo essere un po' sommari. Il VHS, senso. Sì. Esatto, la generazione VHS della quale io faccio parte, per cui non esisteva, per quanto adesso si parli molto di cinema indipendente horror o di genere italiano, perché molti filmmaker anche con bassi budget riescono a confezionare delle cose, non si è mai parlato di quello che c'è stato prima, per cui io ho ripreso contatti con dei filmmaker, registi appassionati di quegli anni, parlo della fine degli anni Ottanta, periodo in cui appunto delle persone si cimentavano con grosse difficoltà nel realizzare corti horror di genere in quel periodo lì. Per cui ho ripreso contatti e ho cercato di creare questa antologia di corti che effettivamente poi è uscita in DVD per la Revap Multimedia e che raccoglie 7-8 corti di quel periodo. Questo progetto poi come lo hai articolato? È stato un po' difficile perché io sono partito dai contatti che avevo in quegli anni, sì. Quindi sto parlando di più di 20 anni fa, persone che magari adesso hanno cambiato completamente attività, e alle mie richieste dire: ah, mi ricordo quel corto del 91 che avevo visto in quegli anni che tu avevi diretto, alcune persone mi hanno detto: ma io non so neanche dove sia andato a finire quel corto, in quale videocassetta o in quale formato ce l'ho. Quindi c'è stato un po' una ricerca in quel senso un po' difficoltosa proprio di supporti. Ripeto, in quegli anni non esisteva internet, non esistevano cellulari, non esistevano gli arbitri, i computer che ti conservavano tutto. Quindi c'è stato un po' abbiamo riesumato questi spettri che molti mi hanno detto: ah, beh, però erano cose amatoriali e non credo sia il caso di farle vedere. Invece era proprio quella la forza, cioè di quelle produzioni underground, ingenue ma anche assolutamente temerarie, una sorta di azzardo, di attitudine punk che ora si fa fatica a trovare nei prodotti, per quanto perfetti, curati, dei giovani filmmaker di adesso. Insomma, mi è sembrato questo interessante, cioè quell'azzardo, quel non prendersi troppo sul serio, che adesso a volte viene un po' a mancare. Ecco, questa è una caratteristica fondamentale. Ecco, la domanda è connessa a questa tua ultima affermazione, perché insomma, a distanza di tanti anni, volevo chiederti complessivamente qual è l'impressione, oltre a questa sensazione che ci hai detto, di quei lavori in quel periodo ormai anche molto lontano. Guarda, ovviamente parziale, certo. Cioè, l'impatto è di vedere delle cose fatte un po' in casa, cioè sì. È ovvio che erano handmade, do it yourself, cioè avere a disposizione degli amici e cercare di filmare qualche cosa che nasceva più dalla passione di spettatori, cioè persone che guardavano film horror piuttosto che John Waters, Russ Meyer, tutto quello che era il cinema anche americano di quegli anni, tentavano di un po' di, non dico di emularlo, però di trasportarlo nei prodotti, per cui l'impatto è sicuramente a volte amatoriale, a volte ci sono anche delle riprese un po' più curate, però ecco, al di là della qualità in sé di ogni corto, di ogni, è proprio questo, cioè la forza anarcoide di quelle cose che comunque circolavano tra gli appassionati, ma ricordo che erano gli anni, i primi anni 90, erano gli anni proprio della Golden Age dell'horror, per cui c'era il Fanta Festival che aveva migliaia di spettatori, il Dylan Dog vendeva centinaia di migliaia di copie, per cui anche le riviste specializzate uscivano in edicola, erano anche quelle un punto di incontro con le lettere degli appassionati per scambiarsi cose e darsi degli appuntamenti. Quindi l'impatto può essere un po' strano rivederli ora, però ripeto, la cosa che mi aveva colpito era proprio questa, cioè che non esisteva, tuttora non esistevano un recupero di quelle cose lì, che secondo me era un peccato che andassero perse, ecco, per quello che poi mi sono messo in moto e sono riuscito a raccogliere questi corti. Senti, a questo punto ci lasci dei riferimenti per saperne di più? Allora, sicuramente il Facebook, che è sempre piuttosto aggiornato anche dalla distribuzione, che è Bizzarro Italiano, quindi su Facebook si trova la pagina dedicata. Il DVD è entrato ufficialmente in distribuzione in tutti, diciamo, i negozi specializzati online e anche quelli fisici, come per esempio Blockbuster di Milano e Trauma di Viareggio. Insomma, sta partendo un po' tutta la distribuzione, oppure si può richiedere direttamente alla Revatto Multimedia, che fa parte della Revatto Records, che ha prodotto tutta la, diciamo, l'antologia e il progetto. Bene Paolo, io ti ringrazio, un abbraccio e aspetto anche qualcosa per me. Assolutamente sì, provvederò, grazie a voi comunque. Un abbraccio, a presto. Grazie, a presto. Paolo Fazzini, per quanto riguarda questa antologia di lavori underground anni 80 e 90, con questa chiudiamo. L'appuntamento con Visionari è per giovedì della prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15. Trovate le informazioni, la scaletta e quant'altro sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, idem sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio. Sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Alla settimana prossima, buon proseguimento.